segni e lumi reina, legger ben puoi la consorte e il danno. Cominci da costui l'opra e l'inganno. Il regio sposo duce molto per te, pur se conviene i mali temprar le pene e raddolcire il pianto. Sol col mio re, non mio consorte ancora, una fiamma s'è spenta, illustre mi rendea, ma non contenta. Ahimè, che più non lice all'amor mio, a quel d'una regina alzare i vanni. I miei voti seconda, e tua mi giuro. Come? Servami un trono che il ciel mi diede, e non soffrire se mani, abietta io serva, ove regnò e sovrana. Altri m'abbi regina, tu m'abbi sposa. Ma che tacer, che pensi? La prima arte in chi regna, il finger sia. Fingasi se ti piace, e tu concino prima l'opra disponi,